microfoni. Arvaia è una comunità che sostiene l'agricoltura, una comunità di cittadini e cittadine che si sono associati per prodursi il proprio cibo. Ovviamente non tutti lavorano a tempo pieno in campo, per cui ci sono alcuni soci e socie che lavorano in campo, e tutti quanti però, i soci che lo desiderano, sostengono l'attività agricola pagando una quota annuale che viene calcolata insieme facendo il bilancio preventivo della cooperativa, e in cambio di questa quota ricevono una volta alla settimana una parte del raccolto. E fra l'altro leggo che la vostra cooperativa è il terreno proprio qui in comune di Bologna. Sì, è in città. In pratica, nella zona di Casteldebole, Borgo Panigale, una zona che è rimasta, diciamo, tra virgolette, miracolosamente verde, quindi una piccola oasi. Siamo aperti come una sorta di parco pubblico, in pratica, per cui chi vuole, a prescindere che sia o no un fruitore della cooperativa, può venire, fare picnic, passeggiare, portare a spasso il cane, ovviamente al guinzaglio, insomma, con le regole che valgono in qualunque posto pubblico, portarci i bimbi, insomma, a godere di questo polmone verde che c'è in questa zona, a cui si arriva abbastanza agevolmente con la ciclabile, l'autobus, insomma, ce la si fa. Sì, ce la si fa, anche perché è veramente poco distante, anche se sembra di essere in aperta campagna. Ci ricordi l'indirizzo sia fisico che internet a questo punto per come diventare soci? Ok, l'indirizzo fisico è via Olmetola 16, se cercate Villa Bernaroli, Parco Città Campagna, su Google lo trovate immediatamente. L'indirizzo del sito della cooperativa è www.arvaia.it e ho detto cooperativa perché in Italia, qui dove siamo noi, il movimento delle comunità che sostiene l'agricoltura, un movimento ormai mondiale, abbiamo scelto la forma giuridica della cooperativa per sostanziare il più possibile l'idea che appunto siamo insieme tutti quanti allo stesso livello, quindi non esiste, tutti i soci, anche quelli che emettono capitale sovventore, hanno un unico voto nell'assemblea dei soci, e quindi per partecipare di questo redistribuzione del raccolto che noi chiamiamo, bisogna diventare soci della cooperativa, ecco. Sostanzialmente sul sito trovate tutte le informazioni utili e potete tranquillamente contattarci per venire a fare un giro, conoscerci, chiacchierare, farci tutte le domande che desiderate fare, insomma. Grazie mille Paola, e vi rimando appunto al sito www.arvaia.it per scoprire come diventare soci e scoprire proprio questa comunità che supporta l'agricoltura. Grazie Paola. Grazie a voi.